se il Ministero della Giustizia fosse un'impresa privata, domani fallirebbe. Un altro aspetto ancora che ha a che fare con l'organizzazione giudiziaria, che è quello del rapporto tra la procura e la polizia giudiziaria. Questa è la cosa più delicata, certo, sì. Ecco, in questo progetto di riforma viene a cadere un avverbio, un semplice avverbio che era direttamente la Questa è la dipendenza. cosa più grave di tutte le modifiche proposte o sentite sino ad oggi. Cosa accade? Accade che più ore o più giorni passano dalla comunicazione, dalla polizia giudiziaria alla procura, maggiore è la possibilità di interferenza, di infiltrazione, di pressioni sulla polizia giudiziaria ad annacquare la notizia di reato.